po' come un fulmine a ciel sereno, e è arrivato in maniera molto rapida, è arrivato in una maniera anche molto sorprendente ed è stata accolta dopo una serie lunga riflessione in cui ho dovuto ponderare velocemente, come dire, un passaggio che per me è un passaggio di vita per certi versi. E quindi sì, diciamo così che è stata una decisione rapida, approfondita, ma di cui sono molto contento e molto sereno. C'è tanto lavoro da fare in questo ambito. A proposito di tanto lavoro, come si inizia? Vabbè, innanzitutto si comincia, credo, dal prendere confidenza con una macchina che in qualche maniera conosco in parte, perché ne ho fatto parte nel passato, e non solo a Bologna ma anche al comune di Ancona, quindi in qualche maniera conosco dall'interno i meccanismi, i funzionamenti della macchina, sia amministrativa che politica. Dopodiché le cose cambiano molto rapidamente, questa volta un ruolo che è completamente diverso, è un ruolo politico, e quindi avrò necessità, come dire, di fare squadra e di prendere confidenza con la nuova squadra di lavoro. E una delle cose che sottolineo è che da soli non si arriva da nessuna parte. La mia esperienza lavorativa sempre confidato nell'intelligenza collettiva, nel lavoro di squadra, nel lavoro di gruppo e nelle competenze che messe insieme compongono poi il vero talento dell'agire sociale e culturale. Quindi conto di prendere confidenza con la squadra, con la macchina amministrativa, burocratica e politica, conto di conoscere le persone che la rendono viva, e io penso che il punto di partenza sia questo. Dopodiché si tratta di mettere in dialogo quella che è l'esperienza che io ho fatto in ambito culturale e sociale, aggiungo anche questa partita, come operatore indipendente all'interno appunto del Cassero, non solo, ricordo anche il Link Project, poi metterla in dialogo invece con la macchina amministrativa. Quindi è da mettere in dialogo, penso che molto del lavoro sarà mettere in dialogo le due prospettive che ho e che ho esperito in questi anni sul dato culturale, sulla pratica culturale, sull'agire culturale, secondo le due focali, le due prospettive. Uno sguardo anche a quello che è stato, che resta comunque, cioè il gender bender e i percorsi della recente crescita di Bologna. Ma sì, uno degli elementi del mio dibattere rispetto alla proposta che mi è stata fatta e che ho accettato è stato appunto capire come poter staccarmi, perché devo lasciare assolutamente, come dire, tutte le mie attività e i progetti che ho portato avanti in questi anni al Cassero. La cosa che vorrei portare in questo è una capacità che ho avuto e di cui sono grato a me stesso, di aver saputo costruire in maniera lungimirante negli anni un'ottima squadra di lavoro, fra l'altro composta da persone che hanno 20 anni meno di me, a cui posso in maniera molto fidata e certa affidare il lavoro che ho compiuto in questi anni. Questo mi fa uscire fuori dal Cassero con una grande serenità e soprattutto penso che questa capacità di avere questa lungimiranza nell'agire culturale che guarda, come dire, a un passaggio di consegne a generazioni diverse possa essere una chiave con cui spero di poter agire anche, e conto di poter agire, mi impegnerò per poter agire anche in ambito comunale, quindi dentro l'assessorato.